14 milioni, salute, e poi un capo sbaglio. cavalli si stava fresi si stava A noi! Silenzio! Ricapitavo! No! La principessa! Su, svegliami! Non è! finalmente. Lasciamelo del conte. Vladimiro. Federico. Principessa, sì. Dottore, una disgrazia, un assassinio, il conte, oh bella! Oh medico, il nome del vero! Eccomi! Il signore Giovanni di Sirie, ma non presto! Ha detto all'ambasciata di Francia, la ringrazio, mi colpa la stessa e subito un prete. Slitta. Parla, parla, parla. Egli mi disse, andiamo al tiro. Andammo, attesi un quarto d'ora. Subitamente nel gran silenzio sono e spari. Ascolto. Nulla. Più nulla, tranne lunghi latrati. Oh mio stupore! Forse il nato spinto cancello corre a sinratto per avvisarlo non seppi. E poi quel buon correndo avea lasciato sul

vicino provo, forzati, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, forse è giorno di Natale, loro sulla soglia preloco con galuppo. Seguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Prendetelo. L'ombre si sono riunite. L'ho preso. Signora. La rivedo. Dunque. Porco. Uccidito! Il conte lui si parò, il signore che si avvia, segretario degli son bisticcio. Principessa, ci fate languir. Qualcuno porta la sua croce. Vedete, anch'io. È un talismano. In questa antica croce era una mia reliquia. Io mi deposi un farmaco e sono l'immolo. Per voi o per gli amici? Chi lo sa? Grazie! Grazie! Hey! la Russia. Partite. A mezzanotte. Partite domani. Poi vedremo allora. Addio, addio. Risponde, sì, ancora un'ora